Che la notte equatoriale ti fa sognare. Ma durante tra i rami in fior le noccioline colorano. E come il sol che presto brillerà, il cuore nel mio petto brucerà sul motivo della rumba. Ma c'è sogni d'amor, qui ciascun troverà tra il festoso tintinnar dei frutti d'or e l'allegro folleggiar dei baragas. Rumbo, olio e fior sul tuo cammino spargerò ed il canto del mio cuor ti canterò. Se la tua bocca tacerà, sul mio respiro tremerò. E canteranno le noccioline d'or, mosse dal vento una canzon d'amore sul motivo della rumba. Pace e fior coglierò ed il cuore t'amerà, mentre stretta, sempre stretta, ti terrò tra il ghiaccioso folleggiar dei maracas.